Anche oggi il Vangelo di Giovanni, capitolo 12, versetto 44 seguenti, ha un insegnamento molto bello e per alcuni aspetti io direi nuovo, non nuovo in se stesso, ma nuovo per noi che normalmente non siamo su questa lunghezza d'onda, cioè dice Gesù: se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno. Oh, guarda che bello! Perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. E cari amici, avremo bisogno di riflettere molto su queste parole, soprattutto oggi, quando siamo invasi da messaggi di pessimismo, da messaggi di apocalisse. Se uno va sul web o ti arrivano sul tuo cellulare e ci aspettano giorni di buio, giorni di disastro e ancora poco tempo e tutto. E invece il Signore ci dice: non è così. E anche la Madonna, dove appare, dice: non è così. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà, dice. Io non sono venuto per condannare il mondo. Quindi chi assume questo atteggiamento è antievangelico. Rifiutate questi messaggi. Respingeteli al mittente. Perché sono venuto per salvare il mondo. E poi aggiunge: se uno mi rifiuta e non accoglie le mie parole, io non lo condanno, però la parola che io ho detto e che viene direttamente dal Padre lo condannerà nell'ultimo giorno. Comunque il giudizio ci sarà. Il Vangelo è pieno nelle sue parole e nei suoi insegnamenti del giudizio, del premio: vado a prepararvi un posto, vi porterò con me, e anche del castigo: portatelo fuori dal nostro pranzo, dove ci sarà pianto e stridore di denti. Ora, quante volte a noi capita di sentire attorno a noi della gente che invece si lamenta contro Dio: Dio mi ha castigata, ma Dio non è giusto, non ho fatto niente di male, cosa ho fatto di male perché il Signore mi castigasse così? E in effetti il Signore non ti castiga, te le sei cercate tu, non è così? Voglio citarvi il caso, che anch'io quando l'ho appresi fu una novità per me, il caso di un grande esorcista, padre Candido Amantini, sarà beato probabilmente, in corso il processo di beatificazione, il quale durante un esorcismo apostrofò Satana e gli disse: vai, vai, vai via, vai giù, vai a casa tua, che il Signore ti ha preparato una casa bella calda, l'inferno. E Satana con stupore gli risponde, gli dice: tu non capisci niente, non ce l'ha preparata lui, ce la siamo fatta da soli, hai capito? Dio non manda neanche all'inferno il diavolo, pensate un po', ce la siamo preparata noi. È un po' così nella nostra vita, amici. Quante malattie ci capitano addosso perché se le siamo cercate noi, o no? Se abbiamo un mondo che sta distruggendo l'uomo, ce lo siamo cercati noi. Finalmente forse l'abbiamo capita, che se vuoi mantenere l'uomo devi mantenere la creazione, la natura. Certi inferni, parola giusta, all'interno delle famiglie, tra coniugi oppure figli che fanno disperare i genitori e tutta la famiglia, ce li siamo cercati noi. Proviamo a riflettere, amici, proviamo a riflettere che il Signore non castiga, ma ce li andiamo a cercare noi i disastri. E allora preghiamo in questa Eucaristia, preghiamo perché il Signore ci doni la luce. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Quanta troppa gente c'è in giro, amici, anche nostri familiari, anche nostri compaesani, anche gente che si ritiene vicina a Dio e che è nelle tenebre. È impressionante. Il sacerdote, quando chiede a qualcuno: ma come stai tu riguardo alla fede, riguardo a Dio? Oh, io ci credo. È molto raro che io incontri persone atee, ce n'è, o persone miscredenti o agnostiche, che non credono in niente. Ma c'è tanta gente che si ritiene cristiana e poi allontana mille miglia da Dio, non si confessa da 20 anni, non va mai a messa. Ma cos'è per te la fede? È quel briciolo di buon senso umano che tu hai dentro? È quella piccola preghiera che dici soprattutto quando hai bisogno? Oppure è questa luce? Oh, cari amici, staremo qui a parlare fino a domani. La luce ti fa vedere. La luce non crea nulla. Se in questa chiesa andasse via di sera, di notte la luce totalmente, noi inciamperemmo nelle panchine, inciamperemmo nei gradini, inciamperemmo dappertutto, perché non c'è la luce. Basta una candela accesa e tu non inciampi più. La luce fa vedere. Oh Signore, ti preghiamo, manda la luce sull'umanità. Manda la luce su quelli di casa nostra, manda la luce sulla Chiesa, manda la luce su ciascuno di noi, perché il mondo col sole è bello, anche con le stelle e con la luna, ma è sempre luce.